a tutti, sono un giornalista precario e attualmente disoccupato. Ti scrivo perché mi sono messo in vendita su eBay. Ho provato uffici del lavoro, agenzie interinali, porta a porta, stage, ma alla fine sono rimasto al chiodo e ho pensato di usare il sito di aste più famoso del mondo per vedere se qualcuno mi avrebbe risposto. Lo faccio per me, spero di guadagnare un po' di visibilità, spero se ne parli. Ma mi auguro anche che la mia provocazione apra gli occhi a quelli seduti nella stanza dei bottoni, perché capiscano che i giovani non sono solo numeri e che hanno voglia di farsi un domani e di lavorare. Qualsiasi lavoro abbiano scelto di intraprendere. La società non deve tradirci o genereremo solo un futuro di bastardi e cinici. Spero che qualcuno voglia raccogliere questo mio piccolo sasso. Per parlare dei problemi di tutti quelli che oggi hanno meno di 40 anni e sono costretti a vivere come adolescenti, perché il lavoro non c'è tranne che per pochi amici degli amici.